Incontri di Gianfranco Fabi. Con queste note di stagione, tratte dalle quattro stagioni di Vivaldi, l'estate, iniziamo l'incontro di oggi. Buongiorno, buona domenica ai nostri ascoltatori e buongiorno ad Alberto Chiesi. Buongiorno. Buongiorno a voi. Alberto Chiesi è presidente e amministratore delegato della Chiesi Farmaceutica, un'azienda che ha festeggiato proprio nelle scorse settimane i 75 anni di età, quindi un'azienda familiare, dottor Chiesi, un'azienda che è nata da suo padre, forse da suo nonno. È nata effettivamente 75 anni fa, quando mio padre, nostro padre, perché oltre a me c'è anche un fratello che si chiama Paolo, in azienda, acquistarono un piccolo laboratorio farmaceutico a Parma e così hanno dato inizio alla loro avventura imprenditoriale. Quindi è nata da un'acquisizione. Come mai questa scelta di entrare nel settore farmaceutico? Un'opportunità? Mio padre è un farmacista, gestiva una farmacia sul Po, a circa 50 km da Parma, ed evidentemente dopo un paio d'anni si è stancato di quella attività e ha pensato bene di fare imprenditore. Quindi dal farmacista al produrre in proprio dei prodotti farmaceutici, scegliendo qualche ambito particolare? All'inizio nostro padre si consultò con parecchi medici, sia in campo universitario che ospedaliero, per cercare di capire quali erano le necessità non perfettamente curate da parte dei pazienti, e così mise in piedi una serie di farmaci di vario tipo, in parte di carattere ginecologico, in parte di carattere neurologico, in parte di carattere antinfiammatorio. Poi, molti anni dopo, quando io e mio fratello, circa a metà degli anni 60, siamo entrati in azienda, ci siamo indirizzati verso prodotti per le patologie respiratorie, asma e bronchite cronica in un primo tempo, poi anche patologie cardiovascolari e infine malattie specialistiche, malattie rare. Per esempio, in campo neonatologico abbiamo messo a punto un prodotto che consente per i neonati che nascono prematuri, una gran parte di loro hanno problemi respiratori, un prodotto che inserito nell'alveo polmonare consente ai bimbi di respirare normalmente e quindi di sopravvivere. Quindi un'opera anche meritoria verso la soluzione di problemi anche gravi delle persone. Ecco, lei non ha mai avuto dubbi, diciamo, non tanto nella sua infanzia quanto quando poi durante i suoi studi, del fatto di dover diventare imprenditore, di avere questa opportunità? Non ha mai pensato di poter fare un'altra strada? È una bella domanda. Io, per la verità, quando ero giovane amavo molto la musica e mi piaceva suonare il pianoforte. Cosa suonava? C'ho un po' provato, musica classica, ci ho un po' provato, poi mi sono reso conto che la cosa era inverosimile perché non avevo le capacità, ma è rimasta la passione e ho deciso di seguire quello che nostro padre ci aveva messo davanti. Ho capito, quindi ha colto l'opportunità per abbracciare una carriera imprenditoriale rispetto a una carriera artistica. Ma secondo lei quali sono le differenze tra una carriera imprenditoriale e una carriera artistica? Non conosco una carriera artistica quali caratteristiche profonde abbia. Una carriera imprenditoriale richiede una notevole dedizione e molto sacrificio, almeno questa è stata la nostra esperienza, e l'idea di non accontentarsi mai, di voler cercare di fare sempre meglio, di crescere l'azienda, di crescere le persone che lavorano in azienda, è una specie di treno messo su un binario che deve comunque andare avanti. Con suo fratello avete sempre avuto un rapporto costruttivo, problemi di successione aziendale li avete risolti? Ecco, mio fratello ha sempre avuto una situazione di grandissima collaborazione, lui sin dall'inizio ha seguito la parte scientifica, diciamo così, di innovazione, nuovi prodotti, io un po' di più la parte così di gestione, ampliamento commerciale, ampliamento geografico, nuove filiali, eccetera. Ma tutto questo nell'ambito di sempre un processo di comunicazione reciproca, magari non fatta di molte parole, ma di profonde intese. Ecco, poi quando un'azienda cresce, probabilmente i problemi sono più facili da risolvere. Diciamo che c'è spazio per tutti, in questo senso. Ecco, voi avete avuto un ruolo non solo così tradizionalmente da padroni delle aziende, da imprenditori, ma anche molto manageriale, molto di attività direttiva, di gestione operativa dell'azienda. Beh, inevitabilmente, perché l'azienda si è molto ingrandita. Oggi abbiamo 3.500 dipendenti, 1.500 in Italia e 2.000 all'estero. Abbiamo 23 filiali operative, soprattutto in Europa, ma anche in America e in Asia. E gestiamo un'attività complessa che va dalla ricerca di nuovi farmaci, nuove molecole, alla sperimentazione clinica, alla registrazione e poi alla, in tanti paesi, quindi con tante agenzie del farmaco diverse, e poi alla commercializzazione. Quindi è un'attività molto complessa che richiede una forte struttura manageriale e in effetti credo che siamo riusciti a mettere insieme una linea di managers che ci credono in questo così disegno della nostra azienda, disegno Chiesi, che si riconoscono nei suoi valori e che almeno fino ad oggi hanno dato un contributo importantissimo alla crescita aziendale. Quindi un gioco di squadra anche all'interno dell'impresa? Ma io credo che il gioco di squadra, almeno nel nostro settore, sia assolutamente indispensabile. Qui uno da solo non fa niente. È sempre necessario che ciascuno possa fidarsi del lavoro fatto dagli altri, quindi il lavoro di ogni persona deve essere fatto bene in modo da essere certi che alla fine il risultato c'è. I rischi insiti in quello che facciamo e anche la responsabilità che c'è nel fatto che facciamo farmaci, quindi qualcosa che va incontro all'attesa della gente di stare meglio da un lato e il fatto di cercare di non fare danni dall'altro, evidentemente è un punto etico che, di cui non possiamo mai fare a meno. Ancora con le note dell'estate di Vivaldi riprendiamo il nostro incontro con Alberto Chiesi, presidente e amministratore delegato della Chiesi Farmaceutica, un'azienda appunto farmaceutica con sede a Parma che ha festeggiato nei giorni scorsi 75 anni di età. Alberto Chiesi ci spiegava appunto nella prima parte che è un'azienda ormai diventata una multinazionale. Presente in quanti paesi, dottor Chiesi? Siamo presenti in 23 paesi con nostre filiali dirette. E poi vendiamo farmaci in un'altra 30-35 paesi attraverso dei distributori. Comunque il cuore resta in Italia, resta a Parma. Il cuore, i polmoni, il cervello e la borsa restano a Parma. In effetti stiamo lavorando per costruire un nuovo centro ricerche che inaugureremo l'anno prossimo, che potrà ospitare 300 ricercatori e quindi unificando, mettendo tutti insieme le nostre persone, aggiungendone altre, le nostre persone che attualmente lavorano un po' sparpagliate nella città, saranno più di 20.000 metri quadrati, credo che sarà uno dei più moderni in Europa e sicuramente il più moderno in Italia. Mi pare che si veda passando dall'autostrada del Sole. È così, sta proprio all'uscita del casello di Parma e contiamo di inaugurarlo in maggio l'anno prossimo. Quindi è ancora possibile crescere, è ancora possibile crescere in Italia, è ancora possibile avere una strategia di sviluppo. Quali sono le condizioni per crescere, secondo lei, Alberto Chiesi? Le condizioni per crescere sono legate al fatto che dobbiamo, essendo un'azienda farmaceutica, essere presente a livello internazionale, perché i farmaci hanno mercato in tutti i paesi del mondo e devono curare le malattie dovunque si presentino. le condizioni per crescere sono fortemente legate alle alla possibilità di poter continuare a investire in ricerca e sviluppo. Noi oggi investiamo una cifra importante in ricerca e sviluppo, credo che siamo tra le primissime aziende italiane, se non la prima, investiamo oltre il 15% del nostro fatturato in ricerca, l'anno scorso 133 milioni di euro. Naturalmente la ricerca nel nostro settore ha dei rischi e dei tempi molto lunghi, ci vogliono parecchi anni, 8-10, per sviluppare completamente un nuovo farmaco. Alcuni farmaci meno innovativi richiedono tempi minori, ma comunque la rischiosità di questa attività è notevole, perché quando il farmaco arriva può essere già superato oppure dimostrare scarsa tollerabilità durante le prove cliniche allargate. Quindi abbiamo bisogno di certezze, di poter lavorare con tranquillità, senza che siano presi provvedimenti restrittivi sul settore farmaceutico un anno sì e l'anno dopo pure, come sta avvenendo anche in questo momento. Perché il settore farmaceutico è un settore largamente dipendente dalla domanda che è, come dire, filtrata dal settore pubblico. Beh, il settore farmaceutico dipende all'80% dalla domanda del settore pubblico, il quale approva i farmaci, decide sulla loro rimborsabilità, sul loro prezzo e poi anche un po' su come sono prescritti, quindi dà degli indirizzi ai medici sulla prescrizione. Quindi noi dipendiamo effettivamente completamente dal settore pubblico o comunque da chi paga i farmaci. Ecco, voi vi confrontate anche sul mercato con degli altri player che sono delle grandi multinazionali. Voi siete una media grande impresa, come possiamo definirla. È possibile comunque confrontarsi sul mercato internazionale con i grandissimi gruppi? Ma il confronto con i grandissimi gruppi è possibile se si scelgono delle aree terapeutiche limitate. Noi abbiamo scelto l'area delle patologie respiratorie, in cui concentrando l'80% dei nostri sforzi di ricerca e anche di quelli commerciali, possiamo competere con grandi gruppi internazionali che si occupano di tantissime patologie e quindi devono in qualche modo aumentare le loro risorse e i loro sforzi. Un altro settore in cui è possibile competere è quello delle malattie rare, quello delle patologie di nicchia che riguardano un numero limitato di pazienti, in cui lo sviluppo dei farmaci è leggermente meno lungo in termini di tempo, anche se molto impegnativo in termini di risorse, e che spesso non sono prese in considerazione dalle grandi multinazionali perché non hanno un giro d'affari sufficiente. Però alla fine anche queste patologie sono importanti e anche molto per le persone che ne sono afflitte, e soprattutto perché ci sono pochi farmaci per curarla. Qual è stata la soddisfazione maggiore che lei ha avuto negli ultimi anni di fronte a qualche avvenimento aziendale, a qualche ricerca andata a buon fine, a qualche prodotto, diciamo così, indovinato? Ma direi due soddisfazioni. Una riguarda il nostro surfattante, questo farmaco di cui parlavo all'inizio, per salvavita nei confronti dei neonati prematuri. È partito lentamente, dopo 15 anni ha conquistato la leadership a livello mondiale, oggi è il farmaco più diffuso a livello mondiale, presente in 65 paesi tra cui gli Stati Uniti e la Cina. Un'altra soddisfazione è quella di essere riusciti a, nel settore della terapia dell'asma, inserire recentemente un nuovo farmaco frutto della nostra ricerca, che ha conquistato una discreta quota di mercato in molti paesi europei e che è soprattutto apprezzato perché ha alcune caratteristiche innovative nella formulazione che consentono al paziente un migliore utilizzo dei principi attivi. Ecco, voi state realizzando appunto questo grande centro di ricerca. Ci saranno dei giovani ricercatori preparati dalle università per entrare in maniera costruttiva in un lavoro di squadra, in un lavoro certamente altamente specializzato come il vostro? Com'è il rapporto con l'università? Ma noi abbiamo molti, per fortuna, molti rapporti in atto positivi con parecchi centri universitari italiani ma anche stranieri. Abbiamo sempre e stiamo operando per alcuni progetti addirittura mandando nostre persone a lavorare in laboratori universitari, e siamo disponibili a invitare il ricercatore universitario a lavorare nel nostro nuovo centro di ricerca. Noi riteniamo che oggi il know-how e le nuove idee, le idee buone in campo terapeutico sono dappertutto e vanno prese e considerate dove sono, e quindi se sono nell'Accademia noi dobbiamo cercare di svilupparle tenendo conto che sono nell'Accademia. Se sono in altre aziende o in altri centri di ricerca dobbiamo anche lì cercare di collaborare in modo da portare avanti un progetto nel modo migliore rispettando la provenienza delle idee. Come vedi i giovani di oggi, i giovani che entrano in azienda, che cercano un posto, che cercano di far carriera? Ma a me pare che la maggior parte dei giovani che entrano da noi è desiderosa di prima di tutto imparare come si fa a lavorare in un'azienda, che è diverso da quello che si è appreso all'università, anche se le basi scientifiche sono assolutamente indispensabili. E poi sono desiderosi di conoscere, di provare a sperimentare cose nuove, quindi questa è una cosa assolutamente positiva e molto soddisfacente per noi. Quindi la nostra idea è di cercare di inserire sempre più giovani, soprattutto nei progetti innovativi, e speriamo di riuscire, di essere in grado anche di rischiare qualcosa di più in futuro, quando avremo maggiori risorse, per poter anche far partire qualche progetto del tutto sperimentale. In realtà ne abbiamo dato corsa a uno e ci siamo inseriti recentemente in uno spin-off con l'Università di Modena e Reggio, quindi vicino a casa nostra, e abbiamo costituito un'azienda fra noi e l'università dove un paio di ricercatori stanno lavorando sulle cellule staminali e hanno già una notevole e positiva casistica per riuscire a sostituire la cornea di persone che hanno avuto l'occhio danneggiato da traumi o insulti chimici, per riuscire a sostituire, a ricreare una cornea nuova partendo dalle cellule staminali dell'occhio del paziente. E questo è un esempio di attività nuova in cui ci sono dei giovani inseriti. Certo, attività molto di nicchia che però possono risolvere i problemi appunto di una persona, e comunque la persona è una parte importante di una nostra società che ha bisogno comunque di fiducia, che ha bisogno di crescere. Come vede il futuro dell'Italia, un paese di cui spesso si parla, secondo me un po' a sproposito, di declino, ma un paese che ha certamente qualche complessità nel delineare un'ipotesi, una strategia, un modello di sviluppo? Come vede il nostro futuro, Alberto Chiesi? È difficile dare delle indicazioni su quello che potrà essere il futuro del nostro paese. A me pare di poter dire che, almeno per quanto so io, ci sono molti buoni cervelli e molte buone idee nuove in Italia. Quello che ci manca forse è da un lato una società abbastanza organizzata e anche lucida nel fare delle scelte per portare avanti le migliori idee e le migliori persone. Dall'altro è una società matura, la nostra, con una percentuale di persone anziane, grazie anche, se tiro l'acqua al mio mulino, all'attività delle aziende farmaceutiche, che ha raggiunto una longevità di vita invidiabile, e questo naturalmente riduce un po' quelle che sono le risorse disponibili per i giovani. Ecco, credo che noi dovremmo cercare di raggiungere un equilibrio fra la cura delle persone e il mantenimento in buona salute delle persone anziane e via libera ai giovani per attuare i loro progetti. Infine mi permetto di dire che uno snellimento burocratico della nostra macchina amministrativa mi sembra assolutamente indispensabile. Noi siamo organizzati per larga parte in maniera un po' ottocentesca. Le regioni sono una cosa nuova, ma i comuni e le province, i piccoli comuni che non si mettono insieme, un sacco di organismi burocratici che non decidono, credo che lì dovremmo fare grossi passi avanti. Ma probabilmente una medicina per vincere la malattia della burocrazia sarà difficile da inventare. Credo anch'io. E sul mondo farmaceutico, per concludere, come vede i cambiamenti di questo sistema, del sistema dell'industria farmaceutica? Ma l'industria sta sicuramente attraversando dei cambiamenti importanti. Da un lato è più difficile, è più costoso ottenere nuovi prodotti, in molti approcci terapeutici sono già stati sperimentati e quindi occorrono idee nuove e risorse aggiuntive. Dall'altro c'è un problema di spesa, non solo farmaceutica, non tanto farmaceutica, che poi è una spesa abbastanza modesta rispetto al totale della spesa sanitaria, ma quanto contenimento, necessità di contenimento della spesa sanitaria. Quindi tutti i governi stanno stringendo, stanno tagliando i prezzi dei farmaci, e anche lì credo che dovremmo arrivare a un compromesso virtuoso, nel senso che le aziende devono continuare a investire in ricerca, ma qualcuno ci deve dare degli incentivi a quelli che investono in ricerca, e soprattutto che riescono alla fine a mettere sul mercato dei prodotti validi, degli incentivi per continuare a investire. Ecco, Chiesi Farmaceutici ha festeggiato i 75 anni, ci possiamo dare appuntamento per i 100 anni, ormai con la longevità si può guardare molto avanti, resterà un'azienda familiare la sua? Al momento credo di sì, c'è una nuova generazione di giovani Chiesi in azienda, sono tre, mi pare che abbiano l'intenzione di proseguire nell'attività dei loro genitori. E allora diamo appuntamento anche a loro per i 100 anni di Chiesi Farmaceutica. Ringrazio Alberto Chiesi, presidente amministratore delegato, che ha parlato con noi questa mattina. Ringrazio gli ascoltatori, ringrazio Peter Bascapè in regia e Anita Panizza in redazione. Ricordo che questo programma, come gli altri programmi di Radio 24, può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Buona domenica a tutti.